Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. E allora, la borsa oggi positiva, sta ritracciando meno 0,7%, Parigi meno 1%, Francoforte meno 0,30%, Londra meno 0,90%, l'America mezzo punto percentuale in calo. L'euro si conferma invece stabile sopra 1,31, quindi in recupero rispetto a un paio di settimane fa, ma soprattutto le buone notizie, devo dire anche oggi, arrivano dal fronte spread, tassi di interesse, Euribor, collocamento del nostro debito sul mercato. Anche qui, buone notizie rispetto a uno spread a 500, 520, 540 punti. Avere una differenza tra noi e la Germania, tra quanto costa a noi indebitarci come paese, quanto non costi la Germania, del 4%, questo vogliono dire 400 punti, è ancora tantissimo. Vuol dire che se la Germania ha un'obbligazione che rende l'1%, la nostra equivalente deve rendere il 5%, e via così. Però, anche oggi lo spread è tornato sotto la soglia psicologica dei 400 punti, è sceso a 396, poi è ritornato sopra 400, ma insomma il rendimento del BTP italiano a 10 anni, quello su cui si misura il costo del rischio paese, diciamo, è sceso sotto il 6% lordo, al 5,90, poi è sceso ulteriormente al 5,83%. Il tesoro oggi è riuscito infatti a collocare tutti gli 11 miliardi di bot a 6 mesi con un sensibile calo del rendimento offerto, il che vuol dire che a noi è costato meno oggi trovare finanziatori per il nostro debito rispetto allo scorso 28 dicembre. Il 28 dicembre il bot a 6 mesi uscì con un rendimento del 3,25%, adesso dell'1,96%. Insomma, è un punto e mezzo quasi di risparmio sugli interessi che noi paghiamo sul debito. E anche il bot a 6 mesi è andato sotto il 2% di rendimento per la prima volta da giugno. Ora, giugno è un mese fondamentale perché è il mese in cui è iniziato l'attacco al debito italiano. Ricorderete che fino a fine maggio, inizio giugno, lo spread viaggiava intorno a 260-280, poi lì iniziò tutto, in coincidenza, come spesso ricordiamo, con le elezioni amministrative, ma non solo. E allora un galletto così timido, non terremotato, un po' infreddolito, però io sullo spread sul rendimento del bot che torna a scendere a un livello mai visto da giugno, lo manderei. E di questo parleremo tra pochissimo. L'altro tema di questa giornata chiaramente è il decreto semplificazione del governo. La conferenza stampa di Mario Monti è terminata da poco, questa sera sarà ospite del TG1, ma insomma c'è tanta roba dentro, tante piccole cose, ma che riguardano moltissimi soggetti. Alcune le trovate come sempre già oggi sui giornali, però attenzione, non tutto quello che era in bozza poi è stato confermato. Comunque il decreto sulle semplificazioni ha ottenuto il via libera, ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma, alcune novità verranno già date i nostri GR, così come parleremo in questa puntata anche di Davos. Oggi al forum del World Economic Forum sono intervenuti il segretario del tesoro americano Timothy Geithner, quindi il ministro dell'economia americano, ma anche il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Torniamo alla borsa. Bene Salvatore Ferragamo, più 8%, Ansaldo più 2,30 come Tolz, Steam Electronics più 1,70, Enel più 1,30. Inflessione adesso anche significativa, Fiat meno 4%, Unicredit meno 3,60, Buzzi Unice meno 3,30 come la Popolare di Milano, il 2,40 lo perde il Banco Popolare, il 2,30 il calo di Pirelli e in pregiro il 2% quello di Fiat, l'1,80 quello di Monte dei Paschi e Mediobanca. Parmalat meno 1,6, Popolare Emilia Romagna meno 1,5. Petrolio a $99.50, leggermente sotto i $100. Oro a $1,719. Continua a salire l'oro, stiamo parlando all'oncia. Un'oncia sono 32,3, mi sembra, grammi. Appunto, che è l'unità di misura per l'oro, lo dico perché ce l'ho chiedete ogni tanto. Andiamo avanti. Dati americani. Il PIL nel quarto trimestre, il PIL americano nel quarto trimestre è cresciuto meno delle attese. Più 2,8%. L'economia americana complessivamente nel 2011 porta così a casa un più 1,7%, che è decisamente inferiore rispetto al più 3% del 2010 come PIL, e dimostra che la contrazione, che per noi si chiamerà recessione, in altri paesi si chiama rallentamento o stagnazione, è iniziata proprio nell'ultimo trimestre dell'anno. Però il presidente Barack Obama mostra un cauto ottimismo, dice che l'industria americana, a partire da quella automobilistica, è tornata a creare posti di lavoro e ha rivendicato il fatto di avere salvato l'industria automobilistica americana mentre altri l'avrebbero fatta morire. Sì, abbiamo controllato l'oncia, ci sono due tipi di oncia, c'è l'oncia Troy e un altro tipo di, vedo che alcuni scrivono sull'oncia. Non è l'oncia normale quella che misura il prezzo dell'oro, è l'oncia cosiddetta Troy. Dicevo, a parte Barack Obama, contento per come l'industria dell'auto stia tornando a creare occupazione, il dato di oggi è inequivocabile, perché Ford ha fatto un boom di utili nel 2011 a $20 miliardi, ai massimi dal 1988, però, attenzione, ci sono stati dei pesanti aiuti fiscali una tantum al gruppo Ford, infatti l'utile al netto di tutti i benefici fiscali scenderebbe a 8,8 miliardi per azione. Brutta notizia dalla Spagna invece, dove la disoccupazione è tornata al 23% nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, ossia il livello più alto da 15 anni a questa parte, e un livello praticamente doppio rispetto alla media europea. Hai perso tutto il tuo sprint, deprimi la mia voglia di investire. E meno male che gliela deprimo, perché stia attento, no? Dico un ascoltatore che dice che lo deprimiamo sulla sua voglia di investire, ci dica dove voglia investire, che invece è più importante in questo periodo. E qualche segnale di fiducia oggi sui mercati, ossia non solo dallo spread di cui parleremo, dall'asta dei bot a 6 mesi, dall'Euribor che è calato, ma anche da alcuni articoli di giornale. Allora, il Financial Times, che non è mai stato tenero con il nostro paese, come molta stampa anglosassone, oggi scrive: dopo un'assenza di quasi 2 decadi, 20 anni, mi sembra un po' tantino, comunque, l'Italia è tornata sulla scena internazionale e il destino di Monti può essere quello dell'Europa. Il Financial Times definisce Mario Monti il leader europeo più interessante, affermando che Barack Obama lo sostiene anche nel confronto con Angela Merkel. E già molti giornali anglosassoni usano il doppio Mario, Mario Draghi e Mario Monti, come i due soggetti più interessanti, oltre che tutti e due italiani, nello scacchiere europeo. Addirittura l'Economist oggi arriva a paragonare Mario Monti a Margaret Thatcher. Ma chi saranno i minatori? che bloccheranno Monti, si chiede l'Economist, che definisce e battezza Monti Iron Monti, perché Iron Lady era il soprannome, la Lady di Ferro o di Acciaio era il soprannome di Margaret Thatcher. Prometeia, le prospettive di medio-breve termine diffuse oggi, calcola Prometeia che a fine del 2013 nel nostro paese si saranno persi 800.000 posti di lavoro, il deficit salirà al 3,9% per quello che riguarda il deficit in realtà del 2011, scenderà all'1,7% nel 2012. Fa discutere, se ne sono occupati anche i nostri GR, il rimborso annunciato dalla compagnia Costa Crociere dopo l'accordo raggiunto tra l'Associazione Nazionale dei Consumatori. 11.000 euro a persona come rimborso forfettario a titolo di indennizzo, copertura di tutti i danni patrimoniali e non subiti nel naufragio della Concordia da ogni passeggero, compresi i bambini. Adiconsum ha parlato di elemosina e poi ha detto che il rimborso totale sarà di 14-15 mila euro in realtà. E adesso parliamo anche dell'autotrasporto, perché se la Coldiretti ha stimato in 100.000 tonnellate il cibo, che tra frutta, verdura, latte, ma anche fiori, che verranno buttati, 200.000 ore di lavoro perse e 200 milioni di euro di danni, ricorderete che a suo tempo chiedemmo ai Forconi, quindi al Movimento Siciliano, oltre che di occuparsi di Roma, anche di occuparsi di Lombardo, che invece cioè il governatore siciliano che cavalca la crisi e le proteste. Beh, il dato su quanto guadagnano i consiglieri siciliani alla regione e il presidente della regione dovrebbe far riflettere chi protesta sempre e solo contro Roma, andasse a protestare contro Palermo. Allora, lo stipendio di Raffaele Lombardo, del presidente della regione Sicilia, è di 14.100 euro, quello di un consigliere della regione siciliana è di 10.000 euro. Allora, con tutto il rispetto per la Sicilia, Lombardo guadagna in un anno 170.000 euro, Luca Zaia, che rappresenta il Veneto, guadagna 118.000 euro, nonostante il PIL del Veneto sia del 75% superiore a quello siciliano e il costo della vita in Veneto sia di quasi 9% più alto rispetto a quello siciliano. Ma Lombardo qualche taglio l'ha fatto. Pensate che il suo stipendio sia ridotto di 136 euro, che sono all'anno, al mese, tanta roba, e mentre quello dei consiglieri regionali di ben 890 euro su 10.000, quindi da 10.009 a 10.050. Sì, poi per non prendersela solo con la Sicilia, va anche detto che ci sono regioni in cui proprio tagli non ne hanno fatti. La Sardegna continua ad avere un bel primato come presidente della regione, 14.600 euro, zero tagli. C'è chi, come in alcune regioni, addirittura ha avuto dei piccoli aumenti, in Toscana 21 euro in più. Tagli più consistenti sono stati fatti sul presidente del consiglio e i membri del consiglio regionale dall'Abruzzo, 5.000 euro in meno, 7.000 euro in meno per i consiglieri, in Veneto 2.000 euro in meno per il presidente, 1.000 euro in meno per i consiglieri. Tutti questi dati li dobbiamo a Sergio Rizzo del Corriere della Sera. È incredibile però vedere come, e questo lo dico agli ascoltatori siciliani e anche a chi protesta nei confronti del caro benzina e dell'agricoltura, beh, sappiate che il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e della Lombardia, che sono due regioni abbastanza ricche direi e anche abbastanza efficienti, costano 8 euro agli abitanti della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 8 euro è quello che chi risiede in Lombardia e Emilia Romagna paga per mantenere i costi del Consiglio regionale. Sapete quanto paga un siciliano, anche gli agricoltori, anche i camionisti che protestano? Beh, paga praticamente 35 euro, cioè siamo a più di 4 volte, se le sommiamo tutte queste cose. Quindi vuol dire che una famiglia di 4 persone paga sostanzialmente 100 euro in più rispetto a una famiglia di 4 persone lombarda o dell'Emilia Romagna. È un mondo difficile e vita intensa. Sì, un mondo difficile, perché tagliarsi, lo dico con il massimo rispetto, 130 euro al mese su 14.000 euro di guadagno è una crisi, è una crisi. Vabbè, e invece in Grecia mancano i fondi e salta il Gran Premio Callas, il Gran Premio Internazionale Maria Callas per giovani pianisti. E questa è una notizia che ci ha incuriosito, perché più di altre anche racconta in che difficoltà sia quel paese. E poi invece una cosa incredibile che è successa in Italia, anzi in Brianza per la precisione, Monza, Lissone, era un ambulante illegale, probabilmente pakistano, che vendeva le rose per strada. Purtroppo li conosciamo, ce ne sono decine. Beh, dava una ricevuta per ogni fiore che riusciva a piazzare. In un mese raccoglie 500 euro, 100 finiscono alla moglie e al figlio nel suo paese d'origine. Che cosa è successo? Che 3 anni fa l'avevano fermato i carabinieri e gli avevano detto guardi che lei, se vuole vendere rose per strada, deve dare una ricevuta. Beh, sapete che è successo? I colleghi non lo vedono di buon occhio, lo stanno osteggiando, però per fortuna i negozianti aprono solo a lui. Felicità, momenti e futuro incerto. E sul fronte opposto, se vogliamo mettere assieme il fiorista pakistano che dà la ricevuta per la rosa, c'è invece la pensionata italiana, residente a Padova. Pensate, aveva il sussidio pubblico per tirare avanti, ma ogni mese incassava in nero 4.600 euro, oltre che abitare in una villa con grande giardino, piscina, dependance ed essere proprietaria di 14 immobili. È un mondo difficile. C'è chi l'ha ricevuta la dà per la rosa e chi chiede il sussidio nonostante i 14 immobili. Adesso parliamo però di spread. Allora, 396 l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, i punti di spread con il Bund tedesco, rendimento del titolo italiano a 10 anni che è calato del 5,80%. Sta calando anche l'Euribor e quindi la parte che interessa di più gli ascoltatori, perché sono i mutui per la casa, e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore generale dell'ABI e quindi l'Associazione delle Banche Italiane, dottor Giovanni Sabatini. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei. Dicevamo, bene lo spread, sceso più volte sotto i 400 punti, ma al di là dei punti in sé, che per carità sono ancora molto alti, 396, è questa tendenza virtuosa che stiamo registrando da un paio di settimane, cioè scende, magari poi risale sopra i 400, però cerca di rompere quella che gli analisti tecnici chiamerebbero una resistenza. Bene l'asta del tesoro, 11 miliardi di bot con un tasso a 6 mesi che è calato, ed è calato in maniera significativa dal 3,25% all'1,96% e sotto il 2% per la prima volta da giugno, e quindi da quando è iniziato l'intero attacco al debito italiano. Domanda ottima, 15 miliardi contro gli 11 miliardi offerti, e anche l'Euribor, il tasso interbancario, quello che tutti noi conosciamo perché su quello calcoliamo il mutuo, la rata del mutuo quando è variabile, anch'esso in calo. Dottor Sabatini, è chiaramente presto e non vorrei autogufarmi, ma possiamo dire che sembra consolidarsi un'inversione di tendenza? Ma spererei sicuramente di sì, perché noi abbiamo sempre sostenuto che l'Italia è un paese con dei fondamentali solidi. Questi fondamentali non sono stati apprezzati per effetto di una crisi di fiducia che ha investito l'Europa a seguito della crisi greca e progressivamente si è appuntata sugli stati che presentavano come l'Italia dei profili di criticità maggiori, quali lo stock del debito pubblico. Ora, se sommiamo a dei fondamentali sostanzialmente sani le manovre che sono state attuate e la decisione con cui ora il governo Monti sta affrontando sia il profilo della stabilità dei conti pubblici sia i profili di crescita, credo che questi siano dei segnali che i mercati cominciano ad apprezzare e quindi ritrovare fiducia nel nostro paese. Ecco, devo dire che anche, come ricordavamo prima, da Davos tutte le dichiarazioni che arrivano, e parlo del numero uno, per esempio il ministro dell'economia, o meglio segretario del tesoro americano, Timothy Geithner, nel forte apprezzamento per il governo Draghi, il Financial Times che oggi esalta per il governo Monti, scusatemi, il forte apprezzamento anche del Financial Times per il governo Monti, e ormai il Mario e Mario, come li chiamano gli anglosassoni, Mario Draghi e Mario Monti, che addirittura Monti dal Financial Times definito oggi il politico a cui prestare più attenzione e da guardare con maggiore interesse nell'area europea. Comunque, torniamo a noi invece. Questo vuol dire, dottor Sabatini, che anche i tassi praticati alle imprese inizieranno a scendere, praticati alle imprese e alle famiglie? Ma noi abbiamo detto che il problema che avevamo rilevato soprattutto nella fine dell'anno 2011 nasceva da questa esasperata percezione del rischio paese che si rifletteva sulle banche italiane e quindi su un forte incremento del costo della nostra raccolta. Ovviamente la discesa dei tassi riflessa nella riduzione del differenziale tra i titoli di rendimento tra i titoli di Stato italiano e i titoli di Stato tedeschi si rifletterà positivamente anche sul costo del credito erogato. Questo va anche messo in relazione alle misure importanti che ha adottato la BCE e quindi le aste che hanno fornito ulteriore liquidità al nostro sistema, e questo avrà degli effetti positivi anche per il credito alle imprese. Ecco, di questo vorrei parlare dopo il meteo, cioè alla fine tutti sappiamo, lo ha detto la Banca d'Italia, che c'è stato un restringimento del credito alle imprese. Non voglio demonizzare nessuno, ci sono anche imprese che non hanno progetti a medio e lungo termine e vogliono solo un credito a breve per le partite correnti, diciamo, ma vorrei capire quando questo si vedrà, si scaricherà finalmente sul sistema. Chiedo bene, ha ragione l'ascoltatore, i 400 punti dello spread nell'analisi tecnica sarebbero un supporto, non una resistenza, e ammetto che forse definire il governo Monti, il governo Draghi, è stato un lapsus freudiano, nel senso che la famosa lettera della BCE ha di fatto un po' commissariato, a mio avviso in maniera virtuosa, le politiche economiche di questo paese. Meteo e poi i tassi praticati alle imprese. 349-238-6666 per i vostri SMS. ...17:36, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla borsa vorrei concludere l'intervista con il direttore generale dell'ABI, Sabatini. Allora, prendo lo spunto da un SMS arrivato al 349-238-6666 che dice: attenzione, da qua a fine anno, a fine marzo scadranno 55 miliardi di obbligazioni, lo spread potrebbe tornare anzi secondo questo ascoltatore tornerà sicuramente a 500 punti. E allora le chiedo, qual è, così anche come giudizio personale, un livello in cui possiamo iniziare a dire beh, si respira, perché scendere sotto i 400 come oggi a 3,93, per carità, meglio che essere a 540 come due settimane fa, ma è ancora molto alto, non so, 290, 250, 300, quando è che lei, come uomo di banca, dirà beh, adesso ci siamo? È difficile in questo contesto fare fare una valutazione così, così puntuale. È evidente che l'attuale livello, ancora anche intorno a 400, è comunque una soglia molto molto elevata e quindi rende ancora critica la situazione. Sicuramente una riduzione di ulteriori 200 punti rasserenerebbe le prospettive, anche se purtroppo il 2012, come evidenzia anche la stima di Banca d'Italia, rimarrà un anno complesso. E veniamo, dicevo, al rapporto invece banca-impresa. Lei ha chiarito che, insomma, se tutto va bene dovrebbero calare anche i tassi. Qui c'è un problema però non solo di tassi praticati, ma proprio di flussi. La settimana scorsa siamo rimasti molto impressionati dal vedere che le banche europee avevano depositato una cifra record nottetempo, il famoso overnight, alla Banca Centrale Europea, oltre 500 miliardi di euro, poi è calata. Ma insomma, questo era il segnale che le banche non si fidano a prestarsi i soldi tra loro e anche non si fidano a prestarli alle imprese. Allora, che cosa deve accadere perché torni non solo un tasso più favorevole, ma proprio i prestiti tornino a essere erogati? Tutti i dati che abbiamo a disposizione, lo conferma la stessa Banca d'Italia, segnalano una restrizione in questi mesi del credito. Allora, due osservazioni preliminari. Intanto i dati che lei cita riguardano il totale delle banche. Sì, sì, totale, europee, certo. Esatto, le banche europee, quindi è vero che c'è una diffidenza delle banche straniere, delle banche nord europee a prestare alle banche, diciamo, dell'Europa meridionale, incluse le banche italiane. Non è vero che le banche italiane non si fidano tra di loro. Secondo aspetto, la liquidità che le banche italiane hanno raccolto dalla BCE è stata riempiegata per i finanziamenti alle imprese, e questo è dimostrato da un dato fondamentale. Ancora a dicembre il credito alle imprese non è diminuito, anzi ha registrato una variazione del 4,9% positiva rispetto all'anno precedente. No, ha ragione, è diminuito il tasso di crescita, non è che sia... Esattamente. È diminuito, esattamente, diciamo, l'intensità con cui presta. C'è un rallentamento, certo, della crescita del credito all'economia. In effetti, nell'ultimo, se facciamo un confronto tra una media dal 2000 al 2011, oggi questo tasso si è quasi dimezzato. Però dobbiamo tener conto del contesto in cui ci muoviamo, cioè una forte crisi con una caduta della produzione, quindi anche con una caduta della domanda di investimenti, e con una rarefazione della liquidità determinata proprio dalla crisi del debito sovrano. Per le banche europee e anche le banche italiane si è completamente inaridito nella fase finale dello scorso anno il canale di finanziamento rappresentato dal mercato interbancario all'ingrosso estero. Questo canale inaridito ha trovato una parziale compensazione nelle misure adottate dalla Banca Centrale Europea e quindi nelle aste che si sono svolte l'ultima a dicembre, poi ce ne sarà un'altra a febbraio. Però quella immessa nel sistema dalla Banca Centrale Europea è liquidità sostitutiva, non addizionale. No, certo, le dice, serve a integrare, lo sappiamo tutti poi che, ma questo devo dire, su questo noi siamo molto molto trasparenti. La cosa più importante è che le banche europee, quindi anche le italiane, che hanno optato circa 110 miliardi su quei 500 complessivi, mettessero in sicurezza, diciamo, il fronte patrimoniale, quindi se c'erano obbligazioni che andavano in scadenza le ricomprassero. Poi, su questo voglio essere molto chiaro, poi viene il fronte del credito alle imprese e alle famiglie. La priorità è la messa in sicurezza del sistema bancario europeo, su questo non ci sono dubbi. Però voi domani, come ABI, fate la seconda tappa di un roadshow che vi porta a Vicenza, venite dal Piemonte e andate a incontrare centinaia di imprese con tutti, diciamo, i principali esponenti, in questo caso delle banche presenti nel nord-est, oltre 700 persone. Che cosa vi spinge in un momento delicato come questo a così, rischiare quasi la polemica? Che cosa spiegherete agli imprenditori? Ma siccome a me non piace l'atteggiamento banche cattive, imprenditori buoni o viceversa, che cosa manca delle volte agli imprenditori per ottenere il credito? Molti suoi colleghi o molti suoi associati ci hanno spiegato in questi giorni che non è che arrivino tutti questi business plan, questi progetti a medio termine. Molte volte la piccola impresa viene a chiedere, soprattutto la piccola, soldi per operazioni correnti, pagamento stipendi, fatture in scadenza, ma senza che vi sia un progetto dietro nel medio termine. Allora, il motivo per cui noi abbiamo iniziato questi incontri sul territorio e di cui la tappa di Vicenza domani rappresenta un appuntamento molto importante è la riflessione che è importante nei momenti di crisi capire le esigenze delle imprese e del territorio, quindi andare sul territorio ad ascoltare e allo stesso tempo andare sul territorio per rappresentare quello che le banche fanno per il paese, per le famiglie e per le imprese. Quindi un confronto sereno in cui ascoltare e capire e allo stesso tempo farci ascoltare e far capire il nostro punto di vista. È soltanto da questo confronto che poi possono venire anche soluzioni concrete che, come la moratoria per le PMI varata nel luglio 2009, è da questo confronto che vengono queste soluzioni che sono state importanti e apprezzate. Un punto importante proprio in questo momento è anche la capacità da un lato delle imprese di rappresentare correttamente la loro situazione, fornire i dati sui loro piani, sulle loro prospettive di sviluppo, e dall'altro anche sicuramente la capacità delle banche di non fermarsi soltanto a guardare l'aspetto patrimoniale, ma guardare anche le potenzialità di sviluppo delle imprese. Questo è un piano su cui abbiamo lavorato insieme anche con Confindustria per cercare di elaborare degli standard di comunicazione finanziaria che facilitino ulteriormente il colloquio banca-impresa, proprio per permettere anche alla banca di valorizzare al meglio gli aspetti prospettici. Uno standard... mi piace il termine, uno standard di comunicazione in cui poi tutti si capiscono, perché sappiamo che il problema della banca delle volte è stato la non totale conoscenza di alcuni territori, ma il problema dell'impresa altre volte è stato quello di non andare a raccontare tutta l'impresa, diciamo, mettendo in evidenza in maniera organica, sistematica, tutti gli elementi di un'impresa, perché un imprenditore poi ha o ritiene di conoscere l'impresa meglio di altri. Ha ragione, ma occorre un linguaggio comune. E in bocca al lupo quindi domani a Vicenza, e speriamo soprattutto che quella che lei ha chiamato una tendenza si strutturi nelle prossime settimane. Mi riferisco a spread e chiaramente anche Euribor. Grazie al direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini. Grazie a lei, buonasera. Vedo molti messaggi su questo, ma insomma è innegabile, l'abbiamo detto, le banche hanno ridotto l'aumento dei prestiti, chiedono i rientri, c'è una situazione paradossale, tassi europei bassissimi, ai minimi storici, tasso della BCE, tassi praticati alle imprese italiane alti, di 3-4 punti percentuali più alti rispetto a quanto non paghi un'impresa tedesca. E lo so, però questo è anche un effetto dello spread, così portiamo questo concetto così alto a una caduta molto molto pragmatica e operativa. 349-238-6666 per i vostri sms, traffico, poi la borsa, poi una piccola nota sul sottosegretario Martone, quello che ha definito sfigati i laureati, quelli che non sono ancora laureati a 28 anni. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa, vi arriviamo poi, tra l'altro, anche gli altri temi, a partire da Davos e dal decreto semplificazioni. Meno 1% nel finale, peccato perché non si muovevano male le borse a inizio giornata. Meno 0,40 Francoforte, meno 0,70 in questo momento l'America, meno 1,30 Parigi e Londra meno 1%. Bene però alcuni titoli, parecchi realizzi o vendite, a seconda di come le si voglia vedere, sulle banche. Vedo che volete già sapere cosa voglio raccontarvi su Martone. No, un attimo di pazienza. Il problema è che quando si fanno certe affermazioni, che uno può anche condividere, bisogna essere più puliti, o meglio, come la moglie di Cesare, no? Al di sopra di ogni sospetto. Se poi invece si scopre che, insomma, tu non sei sfigato perché qualcuno ti ha aiutato, allora è meglio star zitti. Questo in generale, soprattutto se sei un sottosegretario. Ci arriviamo dopo. La borsa, Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Paolo, dicevamo, realizzi o vendite? La differenza è quando realizzi, quando è cresciuto molto un titolo, vendi invece anche quando non è cresciuto. Unicredit meno 4,5%, Popolare Milano meno 3,40%, Monte dei Paschi meno 3,30%, Banco Popolare meno 2,80% e Mediobanca meno 2,30%. Come le chiami? Beh, diciamo che i titoli delle banche erano andati molto bene ieri, in generale nella settimana, anche per l'intero listino la settimana rimane comunque positiva, quindi diciamo che soprattutto sul comparto bancario si tratta in particolare di realizzi prima del weekend, che potrebbe essere molto importante sul fronte della Grecia. Secondo fonti, dichiarazioni di esponenti della Commissione Europea, è possibile che si raggiunga un accordo sulla ristrutturazione del debito greco nel corso del weekend, però non ci sono conferme che arrivano da Atene, quindi diciamo che prima, in attesa di capire cosa succederà, e alcuni investitori hanno deciso di prendere beneficio dopo i recenti rialzi. Unicredit inoltre oggi è l'ultimo giorno dell'aumento di capitale da 7,5 miliardi, l'ultimo giorno per esercitare i diritti. Le stime delle banche del consorzio sono molto positive, si parla di possibili sottoscrizioni oltre il 95%, anche qui il titolo nelle tre settimane dell'aumento, alla fine il bilancio era stato decisamente positivo, quindi sul finale è una flessione che diciamo decisamente tecnica. Per tutto il settore bancario si può parlare di un percorso del genere. Di realizzi, flessione tecnica. In effetti, allora, pur essendo i prezzi delle banche ancora molto bassi rispetto a due anni fa, devo dire, come tu ricordavi, che nelle ultime due settimane un recupero c'è stato. Non, questo è obiettivamente innegabile. Fiat, meno 4,26. Sì, anche Fiat diciamo che ieri era stato tra i titoli migliori, tutto il settore auto europeo era stato tra i più premiati dagli acquisti, mentre oggi se guardiamo i sottoindici di comparto è stato tra i peggiori, ha perso l'1,85%. Fiat rimane inoltre sotto osservazione per la questione del blocco del lavoro degli stabilimenti a causa del blocco dei tir, oggi è ripartito al terzo turno pomigliano, mentre gli altri stabilimenti sono ancora fermi. Anche qui c'è da sottolineare che nelle ultime due settimane il titolo Fiat veniva da un aumento di valore del 21%, quindi anche in questo caso diciamo che sono vendite di chi è passato ad incassare quanto aveva guadagnato nelle ultime settimane. Allora, ennesima conferma di una tendenza molto interessante a mio avviso. Ha iniziato Luxottica, ma ci sono messi anche altri titoli, e cioè oggi Ferragamo, quindi lusso, e di questo stiamo parlando, è andata molto molto bene, perché bene sono andati i conti di ieri, Paolo. Esattamente, ieri a mercato chiuso, quindi quando le contrattazioni erano terminate in borsa, ha diffuso i dati sulle vendite del 2011 che sono stati migliori e delle attese, sono cresciute di oltre il 26% a 986 milioni, quindi dati al di sopra di tutte le attese degli analisti e del mercato, quindi oggi gli investitori hanno premiato il titolo della società che era arrivato a guadagnare oltre il 10%. Ha chiuso a più 7,19% a 12,53 euro. Questa performance ha trascinato al rialzo anche altri titoli del comparto, in particolare vediamo TOTS in rialzo del 2,36%, e comunque sia appunto un segnale che nonostante la crisi, o comunque in questa fase in cui si cerca di uscire dalla crisi, i titoli del lusso e le società del lusso soffrono meno di altre e riescono a mantenere ricavi e margini. Abbiate pazienza per Martone, ancora non sapete cosa voglio dire e già mi state criticando, questo è il massimo. Cioè, ancora, la critica preventiva non l'avevo ancora subita. Andiamo avanti, invece, sul lusso, attenzione, rispondo ad alcuni sms, non è tanto, non è solo il fatto che, come ha fotografato la Banca d'Italia 2 giorni fa, la divaricazione tra gli happy few, cioè tra chi sta bene, guadagna tanto, e tra la parte che invece del paese si è impoverita, è aumentata. Sì, può essere, ma il lusso, quindi Luxottica, Ferragamo, tutti i dati che noi vediamo in questi giorni, va bene perché ci sono migliaia, anzi decine di migliaia, di nuovi miliardari in India, in Cina, in Brasile. Questo è il motivo, non è perché da noi semplicemente aumentata la forbice sociale. Confermo infatti che il merito delle vendite di Ferragamo sono soprattutto come è andato il mercato in Asia, che certo, si è confermato. E anche Tolz sta facendo dei numeri spaventosi, in senso positivo, più 2,36%, 69 euro, anche lì non è che uno si possa comprare 4 paia di scarpe solo perché è ricco. Il problema è che si stanno creando nuovi mercati di ricchi, quindi di settore, o se non ricchi, di comunque acquirenti del lusso. Unipol, Fondiera Assai e Premafin. Anche in questo caso si tratta di giorni ovviamente in cui questi titoli sono sotto i riflettori e quindi sono soggetti ad andamenti anche divaricanti tra un giorno e l'altro. Ieri i titoli erano andati molto bene, tutti quelli coinvolti ovviamente in questo progetto di aggregazione tra Unipol, Fondiaria Assai, Premafin e Milano Assicurazioni. Anche in questo caso il weekend potrebbe essere decisivo, si parla appunto di un via libera già arrivato dalle cooperative azioniste di Unipol e nel fine settimana ci dovrebbe essere il CDA delle società coinvolte. In attesa appunto di questi sviluppi gli investitori oggi hanno venduto, tutte le azioni sono scese, Unipol è in particolare scesa del 3%, tra le prime indiscrezioni su quanto potrebbe comportare questo progetto di aggregazione c'è l'aumento di capitale previsto per Fondiaria Assai che potrebbe arrivare a quota tra 900 milioni e il miliardo. Naturalmente aspettiamo un weekend, oggi Fonsai ha perso il 6,7% in attesa appunto di questi sviluppi nel fine settimana. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo l'approfondimento di borsa con il migliore e peggiore che non vi ho dato, Sintesi più 19%, Acotel Group più 17% e appunto Salvatore Ferragamo più 7,20%, fronte opposto invece di Fondiaria 6 abbiamo già detto meno 6,70%, Industria e Innovazione meno 9,90%. Ancora devo dire che ogni tanto qualche segnalazione positiva arriva e mi riferisco al rapporto banche-imprese, non cito la banca perché sembra una pubblicità, però ci scrive non ho capito se sia il presidente insomma della Italmac, presidente di Unione Meccanica Api Industria Verona, Massimo Busato, che pur essendo una piccola azienda ha avuto un allargamento dell'affidamento di 50.000 euro senza neppure avere troppa fatica. Non posso citare la banca perché obiettivamente sembra pubblicità. Bene così. E adesso andiamo a Davos. Andiamo a Davos con un volo un po' pindarico, cioè andiamo a Davos passando per Martone. Difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua. Allora, gli sfigati. Chiariamo, spero per l'ultima volta, l'opinione su questo. È vero che se uno non ha motivi reali, importanti, per esempio chi studia e lavora, problemi familiari, anche scelte personali di vita privata, laurearsi a 28 anni, a maggior ragione adesso con l'università è un 3 più 2, è tardi e possiamo anche dire da sfigati. Però questo termine sfigato o da fannullone o chiamateli come volete, lo può usare innanzitutto chi si è laureato nei tempi giusti, dovrebbe stare attento un sottosegretario come Martone a usarlo lui, perché rappresenta comunque il governo, e soprattutto non lo può usare, lo dico con massimo rispetto, chi è il figlio dell'ex avvocato generale della Cassazione Antonio Martone, capo dell'autority dell'ex ministro Brunetta sui cosiddetti fannulloni, nel senso che Renato Brunetta mise a presiedere l'autority scioperi e anche la commissione antifannulloni proprio il papà di Martone, e tra l'altro chi, in questo caso è il figlio, Michel Martone, dal ministro Brunetta, per cui il papà lavorava, ha ottenuto una consulenza di 40.000 euro mentre appunto papà becchettava i nulla facenti, e anche chi è diventato docente a 28 anni, che in Italia, lo dico, è un record. Allora, o sei veramente un premio Nobel, oppure, visto poi quello che pubblicano oggi i giornali, in cui la commissione aveva espresso molti dubbi sulla preparazione per nominarlo docente di Martone, deve stare attento, perché se no è chiaro che poi viene, come sta capitando, sbranato. È un mondo difficile. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore a Davos. Buonasera Ugo. Buonasera. A quanti anni ti sei laureato tu? Credo forse 72, però non ti voglio parlare. No, quanti di... anni? No, quanti, non quando, a quanti anni? Voglio sapere. Quanti anni ci ho messo? Sì. Ho cominciato dai 5 anni, sono stato, ero un bambino prodigio, sono entrato alla LMIT e poi ho fatto anche la Kennedy School of Government, però la prima laurea l'ho conseguita a 72 anni. Vorrei anch'io parlarti dei miei figli, ma non lo farò, però posso dire solamente che ho molte ragioni per essere molto orgoglioso di me. Oh, va bene. Comunque, ripetiamo. È giusto dire che se uno non ha buoni motivi è da sfigati, da così, da in qualche modo senza grande spina dorsale laurearsi così tardi, però bisogna stare attenti quando si parla, perché poi bisogna, perché poi uno va a vedere che curriculum hai tu e che corso hai fatto e se hai avuto qualche agevolazione. Vabbè, da Davos, ancora applausi all'Italia, vedo il Financial Times e Geithner, ma piace così tanto sto governo Monti, Beh sì, devo dire, alla faccia tua, ieri sono stato anche intervistato dalla televisione svizzera, svizzera italiana, per chiedermi allora proprio di questo, cioè quanto fossi orgoglioso come cittadino e come giornalista dell'essere italiano. In effetti oggi, anche se Draghi è il presidente della BCE, però a memoria di World Economic Forum non si ricorda un italiano a quale viene concesso l'onore della seduta plenaria tutto da solo. Sì, c'è un atteggiamento diverso anche nelle battute di tanti colleghi, c'è assolutamente un atteggiamento diverso verso l'Italia e anche degli interlocutori, cioè la gente è più disposta a farsi intervistare da un italiano, il che non è male per un giornalista. Ah beh, questi sono, diciamo, conflitti di interesse che tu ci stai raccontando, però il segretario del Tesoro Timothy Geithner, cioè il ministro dell'economia americano, ha chiarito oggi proprio da Davos, dove c'è il World Economic Forum, che la crescita americana dipenderà anche dagli sviluppi della crisi europea. Non esistono oracoli in economia e c'è ancora molta incertezza nel mondo. Credo però che il giudizio più condiviso circa l'economia statunitense è che possa crescere tra il 2 e il 3% quest'anno. Credo che sia una visione realistica per la nostra economia, sempre che si vedano un po' più di progressi in Europa e che non aumentino i rischi dall'Iran. Stiamo ancora affrontando sfide enormi, stiamo ancora riparando i danni causati dalla crisi finanziaria e i risparmi degli americani. Il settore delle costruzioni è ancora molto debole. I cittadini sono ancora molto indebitati e ci vorrà tempo per risolvere i problemi. La crisi è arrivata alla fine di un decennio in cui non c'è stata praticamente crescita dei salari. Il livello di povertà è elevato, così come le diseguaglianze. Si è erosa la fiducia dei nostri cittadini e soprattutto sono aumentate le sfide nel mondo. Solo lo scorso anno, per esempio, c'è stato il disastro in Giappone e la crisi in Europa. La situazione è difficile, continua a esserlo a livello mondiale, proprio quando siamo ancora in via di guarigione. Allora, c'è chi dice che sto attaccando ingiustamente Martone. No, dai, basta. Non ripeto più il concetto. il concetto espresso dal sottosegretario è corretto, bisogna stare attento a chi lo dice, se veramente chi lo dice è come la moglie di Cesare, cioè al di sopra di ogni sospetto. Chiudo e torno invece al nostro Ugo Tramballi da Davos, dove è immerso nella neve. Timothy Geithner ha anche detto che il calo del deficit non è una priorità americana, è un po' diverso dall'atteggiamento tedesco. Questo atteggiamento tedesco è stato criticato, accettato, osannato, visto che siamo alla conclusione del vertice di Davos? Posso, cioè, parlare in inglese, mi garantite la traduzione o devo parlare in italiano? No, parla in italiano, basta che non parli del Milan, a me va bene. Sì, cioè, voglio dire, certamente i tedeschi sono sotto assedio anche qui, tutti quanti vorrebbero che i tedeschi riconoscessero la necessità di aprire un pochettino le tasche, di aprire soprattutto la mente. Detto questo, però, comincia a crescere anche un grande dubbio qui a Davos. Avessero forse ragione i tedeschi? Perché appunto i dati degli spread anche di oggi sono tutti positivi. Draghi ci ha spiegato appunto che è una cosa molto interessante, che lo spread è stato il motore, oramai lo spread non c'è più bisogno di spiegare a nessuno, alle massaie, a mia mamma se fosse ancora io non avrei più bisogno di spiegarglielo, dice che lo spread è stato il motore delle riforme. Beh, non ha torto, cioè, non ha torto, devo dire che... No, certo. Cioè, voglio dire, in Italia è brutto dirlo, ma la riforma delle pensioni, la riforma, le liberalizzazioni, piacciono o non piacciono, cioè tutte le cose che Monti sta... infarinando giorno per giorno, non le avremmo mai fatte passare così e così anche rapidamente se non avessimo avuto questa spada di Damocle dello spread. Questo va detto obiettivamente. Sì, certo, ma non solo in Italia, poi come ha detto Monti, Draghi in tutta Europa è così, sta per essere quantomeno così, se non già così come in Italia. E questo appunto è molto importante, quindi tutto sommato viene riconosciuto dopo tre giorni di attacchi anche molto duri alla Germania che forse l'enfasi sulla disciplina così può funzionare. Geithner ha detto una cosa secondo me molto, molto interessante, anche se apparentemente banale, cioè chiaro che la grande minaccia per il 2012, tra l'altro sul 2012 Draghi è stato anche abbastanza positivo, ottimista, ha detto che forse non sarà così duro come tutti dicono, però la grande minaccia del 2012 è appunto comunque l'instabilità europea, e questo è sempre alla parisiano, anche perché gli americani dovrebbero riconoscere un po' qualche volta che tutto è cominciato a casa loro, anche l'aspetto geopolitico, cioè molti pensano che nel 2012 ci sarà potrebbe succedere qualche cosa di politico molto grave, una rivoluzione, una nuova guerra, e quindi, come dice giustamente, ma Iran, quindi? Il focus è, non può che essere quantomeno l'Iran, è quello più prevedibile. Certo. Questo veramente è un grave problema. Questo anche perché sappiamo che Iran, oltre alle tensioni politiche, geopolitiche, significa anche tensioni geoeconomiche sul prezzo del petrolio. Mario Draghi, che tu citavi, il suo intervento al forum di Davos, al World Economic Forum di Davos. La quantità di progressi è eccezionale. Se guardiamo quanto fatto dai paesi dell'area euro dal punto di vista dei conti pubblici e sul fronte dell'adozione di riforme strutturali, i progressi sono straordinari. Se paragoniamo la situazione attuale solo a quella di 5 mesi fa, l'area dell'euro è un altro mondo. Molte cose sono state fatte e c'è determinazione per farne altre. Se guardiamo ai progressi relativi al Fiscal Compact, solo 3 mesi fa l'idea non era nemmeno concepibile. E anche riguardo al firewall, al sistema di protezione che è stato molto criticato, a dicembre il Consiglio europeo ha deciso di portare avanti l'ISM e di ripensare l'adeguatezza delle risorse dell'IFSF entro marzo. And to reassess the adequacy of the EFSF resources by March. Ah, quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, anche quello di Mario Monti. Devo dire, ma perché sono provinciale. Ugo Tramballi, sulla Grecia niente mi sembra ancora. Abbiamo visto la dichiarazione di Ackerman, ma insomma, molto molto stallo. Sono pronti al taglio del debito fino al 70%, ha detto il presidente di Deutsche Bank, Josef Ackerman. Ugo. Sì, poi mi spieghi perché Draghi sì, io non posso parlarti in inglese, ma comunque sì, la Grecia anche questa è un altro fantasma di banco che continua ad aleggiare qua da Davos. Anche qui c'è un piccolo cambiamento di senso. Prima si era molto pessimisti, adesso ottimisti riguardo alla possibilità di trovare un compromesso sulla Grecia. Detto questo, però, cresce sempre di più la convinzione che tutto sommato della Grecia si potrebbe anche fare a meno e che forse si sta spingendo i greci a prendere questa scelta che alla fine di tutto potrebbe convenire a tutta l'Europa. Cioè, uscire dall'euro? Uscire dall'euro. Ugo, goodbye. Buon rientro, così anche tu hai detto la tua frase in inglese. Buon rientro a Milano, grazie Ugo Tramballi, inviato del 24 da Davos. Traffico e poi il decreto semplificazione approvato oggi e presentato oggi nella sua forma definitiva. Non approvato. Allora, fermo restando che per capire bene che cosa è successo con l'ultima iniziativa del governo, e mi riferisco chiaramente al DL semplificazione, domani Sole 24 Ore esce con 24 pagine sul decreto semplificazione e quindi tutte le novità, anche le pagelle sulle liberalizzazioni, sui punti chiave della manovra, pagine monografiche. Però insomma, l'obiettivo di questo decreto lo ha chiarito in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Mario Monti. Sentiamo questo passaggio. Qui siamo proprio al cuore di un insieme di provvedimenti che da una parte migliorano la qualità della vita dei cittadini nella non piccola parte in cui i cittadini si trovano ad avere rapporti nei vari momenti della loro vita con la pubblica amministrazione e migliora anche la competitività dell'economia attraverso il miglioramento della produttività che deriva per tutte le attività economiche da queste semplificazioni. C'è di tutto in questo decreto e raccontarlo invito veramente a leggere Sole 24 Ore domani per capirlo, perché si va dalle semplificazioni amministrative sugli appalti alle imprese, dove arriveranno risparmi per 1.300.000.000 di euro, a 7.000.000 di euro per le comunicazioni via telematica alla pubblica amministrazione. Tra l'altro il ministro Patrone Griffi ha annunciato che la scadenza dei documenti avverrà nel giorno di nascita di ogni individuo, così uno non deve più andare a controllare quando scade la patente o il passaporto, sa che scade quando lui, il giorno e il mese di quando è nato, poi l'anno ovviamente dipende da quando l'hai fatta. Da maggio i versamenti INPS dovranno essere tutti fatti con la carta di credito o il bancomat, non più i contanti. E poi c'è anche la promozione di percorsi in apprendistato negli istituti tecnico-professionali, i fornai, c'è di tutto veramente. Sembra più un mille proroghe che un decreto. Fornai aperti anche la domenica e i giorni festivi. E quindi si potrà comprare pane anche in questi giorni. Sarà più facile diventare autotrasportatore, tempi più brevi per il rinnovo alla patente degli ottantenni, anche perché con tutto rispetto se non sono brevi per gli ottantenni. E poi cabina di regia per l'agenda digitale, semplificazioni, praticamente i cambi di residenza vengono fatti, pensate, in Italia da 1.400.000 cittadini ogni anno e adesso si potranno fare in via telematica. Allora, ripeto, queste sono solo alcune delle cose uscite dal decreto. Antonello Cherchi, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ciao. Tra l'altro Monti, ti sento un po' basso di volume. Monti ha detto che non solo dovete, voi che lo seguite, abituarvi a consigli di ministri lunghi, è iniziato alle 10 e finito alle 4, ma anche a conferenza stampa molto lunghe. In effetti parla tantissimo Monti, parla a lungo, detto è quasi un'ora anche oggi. Allora, possiamo cercare di tenere assieme tutto questo decreto con le novità anche più importanti, fermo restando che sono solo quelle così a titolo esemplificativo? Beh, sai, si può tentare, anche se, come dicevi tu, il decreto non è è un po' un labirinto, ci si deve orientare e poi ovviamente come sempre il legislatore scrive le norme in maniera un po' criptica, cioè non è detto in maniera specifica qual è l'effetto della norma e qual è l'effettiva semplificazione. Bisogna sempre andare a ricostruire un po' il sistema normativo per trovare il bandolo della matassa. Comunque, se si volesse tenere insieme il decreto, la strada maestra è quella dello sviluppo, gli interventi, i settori di intervento sono, come tu stesso hai detto, in buona sostanza tre: i cittadini, la pubblica amministrazione e le imprese, però c'è un filo rosso che collega tutti e tre questi fronti, e il filo rosso è quello della semplificazione della vita per tutti e tre questi settori, e ovviamente la semplificazione poi è strettamente collegata ad un risparmio e ovviamente anche ad uno sviluppo, perché per esempio viene dato una grossa accelerazione all'agenda digitale e viene data da qui una grossa accelerazione anche all'utilizzo da parte sia dei cittadini sia delle imprese e della pubblica amministrazione di tutti i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Allora, c'era poi un tema che era quello su cui aprivano oggi alcuni giornali, la laurea. Lì, se ho ben visto, cioè il titolo di studio come valore legale della laurea, lì se ho visto il governo ha preso tempo, no? Sì, sull'università diciamo che la vera novità, almeno la novità di impatto sulla vita di tutti noi, sulla vita delle famiglie, è quella dell'utilizzo delle tecnologie, quindi l'iscrizione all'università dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica, quindi con le nuove tecnologie, e soprattutto si prevede la realizzazione di questo portale da parte del Ministero dell'Università, la realizzazione e l'aggiornamento di questo portale in cui confluiranno i dati di tutte le università, portale che dovrà essere sia in italiano sia in inglese. Lo studente potrà consultare questo portale, da questo portale ovviamente estrarre tutti i dati che gli consentiranno di procedere all'iscrizione online. E quindi, e poi appunto l'attesa la consultazione, il rimando, una consultazione pubblica sul valore legale del titolo di studio. Chiarisco in una battuta: in questo momento la laurea ha un valore legale, e quindi che tu la prenda nell'università X o Y sempre uguale è. Certo. C'è chi sostiene che invece eliminando il valore legale verrebbe premiata di più l'università dove hai studiato, perché prendere l'università X vale tanto e magari l'altra università è un po' meno severa. In questo momento però la legge italiana non distingue, cioè tu sei laureato in legge, non importa dove tu ti sia laureato in legge. Grazie a Antonio Checchi del Sole 24 Ore. Come sempre nel fine settimana un ringraziamento va anche a Barbara Bianchi, Mario Del Corno e Alessandro Longoni per l'assistenza in redazione. C'è chi mi scrive: lei è diventato l'Emilio Fede di Monti, può essere, con l'unica differenza che Monti non mi paga lo stipendio né possiede questa radio. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.